Ciao a tutti e tutte. Questa è una delle occasioni belle, perché sono poi tutte belle, quelle che organizza Alberto qui allo studio Campo Boario. E l'occasione con la O maiuscola generale, il programma, il festival si chiama Libridine, è iniziato il 22 aprile scorso e andrà avanti fino a fine giugno, ancora con delle date un po' da definire, però molte di queste sono definite. Una è quella di oggi, cui siamo molto felici di presentare, grazie appunto allo studio Campo Boario, all'Ibridine, Giulio Marzaioli, Marina Sciaco e Antonio Sixti, che purtroppo non è potuto venire per ragioni di salute, ma che comunque sarà validissimamente sostituito nella lettura da Michele Zaffarano tra poco. Di questi tre autori sono usciti, come di molti altri autori, perché la collana è fitta, è interessante ed è varia ed è tuttora in corso. Mentre presentiamo questi tre libri, ce ne sono già due, altri due che sono usciti. È una collana di un editore che si chiama Zacinto, che è sostanzialmente, diciamo, la parte editoriale che si occupa più specificamente di poesia, di un altro editore molto affermato, molto importante, milanese, che si chiama Biblion, il cui interesse però è principalmente volto alla editoria così di saggistica, quindi principalmente universitaria. E questa collana è diretta dallo stesso Antonio Sixti, da Paolo Giovannetti e da Michele Zaffarano, che è qui al banchetto e vedete alla mia destra. I testi che sono comparsi al momento sono, quanti sono? 13, 14, 13. E si annuncia come una collana di libri piccini, smilzi come dimensioni, però insomma, che promettono bene dal punto di vista della sostanza e della bellezza dei testi. Contravvenendo, oltre che alla cavalleria, anche all'ordine alfabetico, iniziamo con una lettura di Giulio Marzaioli, che purtroppo alle 19 dovrà lasciarci per motivi strettamente familiari, però appunto di suo abbiamo questo libro che si intitola, adesso dirò i titoli partitamente, Progetto per una casa, mentre quello di Marina Sciacco si intitola Ghost Track e quello di Antonio Sixti si intitola Il pacco. Allora iniziamo, Giulio Marzaioli, Progetto per una casa. Chiedo scusa a Marilina e a voi per questo ristretto tempo in cui posso rimanere. Vado direttamente a leggere e parliamo dopo, casomai. Ok. Piedi? No, si sente. No. In primo luogo sarebbe opportuno possedere una casa, quindi abbatterla, avendo cura di salvaguardare intatte alcune porzioni, pareti o elementi architettonici, in modo da poter sempre ricordare da dove siamo partiti. La presenza di elementi a contorno della casa, alberi, siepi, eccetera, potrebbe risultare irrilevante. Dovrebbero quantomeno potersi individuare gli spazi adibiti a ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, cameretta dei bambini, bagno. Qualora la sorte sia propizia, potranno inoltre configurarsi secondo bagno, studio, camera degli ospiti, sala hobby, terrazza, giardino, garage, rimessa. Non è del tutto certo, tuttavia, che la predetta suddivisione dei locali sia indispensabile per la configurazione di una casa. Comunque, occorre che in una casa ci sia spazio per far avvicinare le persone. Marina. Alla fine del nastro c'è sempre un altro nastro. Il timer sarà attivato appena prima della fine del nastro. Qualche tempo dopo il timer segnerà che il suo tempo è scaduto, ma adesso sa che a ciascun intoppo corrisponde la stessa risposta. Forse. Se davvero così fosse, si ferma, cade, si riavvolge. Allora nessuno potrebbe più stupirsi di tutto questo. Quando scrivo tutto questo mi riferisco a una stanza scontornata ma compatta, i pezzi di intonaco a vista, una stanza scrostata che nessuno abita e che vorrei tu credessi vera. Vorrei che tu ci credessi. Ricorda che è il problema delle vocine e che sono tutte vere. Il dispositivo è stato attivato, avverte un forte senso di sollievo. Antonio Sixti, il pacco. Preliminari. Ingredienti, gli oggetti, un pacco, un gruppo di ombrelli, 20 circa, un apparecchio telefonico. Ingredienti, le azioni, due movimenti, 100 metri circa, due viaggi, 200 metri circa, una attesa, due morti o appostamento di morti per sonno, una comunicazione telefonica, 10 minuti circa. Possibilità di azione, azioni, comparsa del pacco, più di uno, nei luoghi deputati, esistenza del pacco, più di uno, viaggio del pacco, più di uno, attesa del pacco, più di uno, morte del pacco, più di uno. Il pacco si autodistrugge per sonno, subentra un'attesa e poi una comunicazione telefonica. Gli ombrelli vengono aperti e formano un cerchio, si crea un'immagine che vista dall'alto ricorda un fiore scuro, nero, o anche semplicemente un gruppo di ombrelli aperti e appoggiati a terra. Intorno al pacco, più di uno, compaiono nell'ordine una sedia di legno, alcune corde, dell'inchiostro nero contenuto in recipienti di vetro, un apparecchio telefonico. Nota a margine degli ingredienti, da lontano si vede sopraggiungere un'auto con le luci accese. All'interno dell'auto c'è una donna con un seno molto prosperoso. La donna si lecca le labbra, assieme all'automobile compaiono altre automobili, tutte di colore chiaro. A questo punto, nella partitura, fra gli oggetti e le azioni, è necessario riportare in dettaglio i suoni del paesaggio circostante e quindi rumori di città di medie dimensioni verso le 12.30, rumori di città di medie dimensioni verso le 14.25, vociare del pubblico da stadio, da concerto pop, da manifestazione politica, risate sommesse registrate su nastro. Le risate sono continue e costanti. È importante a questo punto procedere nella descrizione del paesaggio ipotizzato per le azioni che coinvolgono l'uso del pacco, più di uno. E questa è una forma di introduzione, si intitola preliminari questa prima parte del testo di Antonio Sixti. Io dico proprio pochissimo, prima di lasciare a una nuova sequenza di letture, il precisarsi delle identità di questi testi, perché sono dei testi che sembrano estremamente, e lo sono, estremamente diversi l'uno dall'altro, ma che hanno alcuni tratti comuni che per certi aspetti sono addirittura impressionanti, per sovrapposizioni, per possibilità di paragone. Allora, nella quarta di copertina di ciascuno c'è qualcosa che dà l'identità del libro, ma anche che invita a entrare nel libro e che non esaurisce assolutamente la complessità dei materiali contenuti. Leggo la quarta, che sono tutti brevissimi, la quarta di copertina del libro di Giulio Marzaioli, Progetto per una casa. È la casa la prima forma di separazione, di isolamento. Più comoda e confortevole sarà la casa, più facilmente ci sentiremo protetti al suo interno, con il rischio di alimentare senza accorgercene un senso di incertezza verso tutto ciò che è al di fuori delle mura domestiche e che potrebbe degenerare in avversione. Ebbene, questo che sembrerebbe quasi un ritratto tranquillizzante, sereno e rasserenante della casa, o comunque del luogo, del guscio che ci permette di sentirci al riparo e di sentire che il filtro comunque con l'esterno, con ciò che è ostile, è alzato, è in verità una situazione, una realtà architettonicamente molto poco definita. Perché abbiamo già sentito dal primo brano che ha letto Giulio, questa casa nel momento in cui viene costruita viene praticamente subito abbattuta. E quindi ci rendiamo conto che, a meno di non considerare questo testo, come pure è assolutamente legittimo, un testo surrealista che nel suo svolgersi dice e contraddice, comunque ci troviamo di fronte grosso modo a un progetto, e infatti questo è il titolo, Progetto per una casa. Questo progetto però è di una casa particolarmente strana, perché vedremo poi, leggendo, non so se ci sarà tempo appunto per Giulio per leggerlo, che nel corso del libretto questa casa viene descritta come sostanzialmente non avente pareti, una casa la cui apertura principale, la soglia, è il luogo dove in realtà si svolge tutto, dove tutto il libro in fondo si concentra, come se in qualche maniera non si riuscisse mai veramente a entrarci dentro e quindi tutto rimanesse sempre comunque allo stato di progetto. E questo potesse quindi assumere anche l'aspetto di una sorta di dichiarazione metatestuale, come se il testo stesso fosse qualcosa che in qualche maniera si affanna sulla sua stessa idea di progettazione e non riesce ad arrivare a concludersi. In verità, poi, la descrizione prosegue, continua, riesce a essere anche disordinante nelle nostre, e disturbante per le nostre, nel nostro orizzonte d'attesa. E anche scalena, strana, quasi una sorta di luogo che nel costruirsi si autonega. E questo succede soprattutto verso la seconda metà del testo, quando appunto l'identità delle parti interne della casa che vengono singolarmente individuate e descritte e cominciano a essere contraddittorie, cominciano a essere poco effettivamente riportabili a una topografia effettivamente vivibile di una casa dove uno effettivamente vive. Addirittura si immagina un angolo cottura all'inizio del libro, che poi però diventa una cucina su ruote che nello stesso tempo, nel farsi della storia, non compare soltanto a un certo punto su uno schermo, perché ci sono degli schermi che vengono immaginati all'inizio di questa, all'entrata della casa, e però mentre tutte le altre stanze si sa che collocazione hanno, dallo schermo che ci mostra sta cucina su ruote non si sa dove questa sia collocata, quindi esiste, non esiste, non lo sappiamo. Il libro poi si conclude con una sorta di smaterializzazione estrema di questo progetto e poi di fatto della casa stessa. In questo, particolarmente sembrandomi opportuno iniziare quella sorta di fil rouge, a tracciare quella sorta di fil rouge a cui accennavo all'inizio, cioè qualche cosa che collega in qualche modo questi tre libri, perché non diversissima è la strategia del libro di Marilina Sciaco, che già dall'inizio, nelle incertezze del progetto per una casa, dalle incertezze del progetto per una casa passa addirittura a una ghost track, cioè una traccia fantasma che c'è, che non c'è, che non sappiamo se esista e di cui abbiamo soltanto menzione nell'ultimo brano del libro, ma su questo magari ci possiamo soffermare quando avremo sentito la seconda serie di letture da parte di Marilina prima e di Antonio Sixti poi. Il testo di Antonio Sixti a sua volta ancora si definisce per la sua capacità di sdefinire, di smaterializzare, questa volta che cosa? Un'azione scenica. Antonio Sixti, non l'ho detto perché non ho fatto in realtà una premessa biografica per nessuno dei tre autori, è autore sostanzialmente di teatro, performer, attore, regista e anche direttore di teatro peraltro, e attentissimo appunto con questo libro a definire, come abbiamo sentito, gli oggetti che sono in scena, che sono oggetti grosso modo paradossali, abbiamo visto, e poi a disporli secondo una serie di azioni. Quello che abbiamo sentito letti da Michele Zaffarano erano i preliminari, e poi c'è tutta una serie di azioni. Tra l'altro una parte che Michele ha saltato parla del motivo per cui il titolo è Il pacco. Il motivo è perché nel 1920 Man Ray crea in omaggio a Duchamp un oggetto misterioso che avvolge completamente da un pacco di cui non si conoscerà mai l'identità. E poi sappiamo benissimo che c'è tutta la biografia di Cristo e di Jean-Claude, e quindi si passa immediatamente con un salto di decenni alla prassi di Cristo di impacchettare addirittura dei monumenti, che quindi si sa che cosa sono ma non sono visibili perché sono celati alla vista. In questo modo anche questo testo in realtà è celato alla vista, perché ci sono tutta una serie di azioni che appunto poi probabilmente una di queste la leggerà Michele tra poco, di natura pressoché paradossale, assurda, anche lì con qualche venatura surrealista, che non vengono spiegate, non hanno una spiegazione, una decifrazione univoca, e anche qui quindi, portando avanti per tutto un percorso che in qualche maniera ha anche dell'attoriale, qualcosa come una sdefinizione dell'azione. Quindi da una parte abbiamo una casa che si sgretola, da un'altra abbiamo un pacco che non sappiamo cosa contiene, e questo contenuto forse è il contenuto dell'intero libro a sua volta pian piano sgretolantosi, e dall'altra abbiamo una traccia fantasma che in realtà è molto più densa nel caso di Marilina Sciaco, perché si condensa anche in oggetti molto concreti. Poi adesso vedremo partitamente di cosa stiamo parlando, perché è forse l'unico libro che invece di essere un'opera, che coincide col suo stesso progetto, è una serie di progetti, perché ha una serie di sezioni che fanno riferimento ciascuno a una modalità di scrittura diversa. Ma soprattutto la prima parte di Ghost Track è quella che più sdefinisce l'opera, e appunto tra poco lo vedremo. E vorrei però, proprio per ragioni di tempo, ripartire da una serie di letture e lasciare di nuovo quindi la parola a Giulio. Sì, beh, anche un po' di più. Alla porta d'ingresso si accede da un gradino in pietra o granito. dove i bambini possono sedersi ad aspettare, riposare, finire di mangiare un gelato, contare pinoli o i sassi di piccole dimensioni raccolti lungo la strada, osservare i bambini più grandi che giocano a pallone nel cortile. In alcuni pomeriggi d'estate la casa si concentra tutta nel gradino per coloro che scelgono la soglia come punto di equilibrio. Sarà bene curarne la levigatura perché i bambini non abbiano a ferirsi distrattamente. Pietra, granito, gelato, pinoli, sassi. La soglia è un punto in cui si può concentrare tutto il conflitto di un'esistenza e potrebbe bloccare a tempo indeterminato il movimento. Qualora non si disponga di un equilibrio sostenibile, sarebbe consigliabile non sostarvi. Non bisogna fare mai l'errore di sottovalutare una soglia. Una volta sceso il gradino, niente resterà come prima. Per questo, attardarsi al di qua della soglia può essere considerato sintomo di saggezza. Possono trovarsi sottilissimi gradini che quasi scompaiono alla vista. Il gradino si sottrae al cospetto del pianerottolo negli edifici condominiali. In questo caso, sarà impraticabile compiere le attività che solitamente ci possono occupare presso un gradino vero e proprio. Del gradino si conserverà soltanto la possibilità di un ripensamento nel momento in cui, varcata la soglia della porta d'ingresso, questa non sarà stata ancora chiusa. Non potrà tuttavia riconoscersi il senso di onnipotenza e vertigine che offre il gradino, dovendosi comunque rassegnare a due superfici piane e parallele, fuori e dentro, anziché sopra e sotto, così come accade dovendo scendere da un gradino. Sulla soglia, nei casi più fortunati su un gradino, può trascorrere un'intera esistenza colta nei suoi passaggi più significativi. Sulla soglia si parte, si torna, ci si lascia, ci si abbraccia, si saluta, salutando si precipita nelle proprie occupazioni. Alcuni potrebbero rimanere fermi sulla soglia, uno di qua, l'altro di là da essa, incerti su chi debba fare il primo passo. Rimanendo a osservarsi per un tempo indefinito, due persone potrebbero arrivare a innamorarsi o a odiarsi. In questo caso la soglia diverrebbe solida, una barriera da dover abbattere. Trascorrono istanti immemorabili quando lui tornò sui suoi passi mentre lei aveva deciso di non concedergli ulteriori possibilità, oppure quando una folata di vento aveva fatto cadere la pianta di limone davanti al portoncino poco prima che la bimba uscisse inavvertitamente e i traslocatori scalfissero l'anta della porta appena verniciata, portando il vecchio divano ereditato dalla zia. E ancora quando lui si era dimenticato le chiavi inserite all'interno della serratura e il telefono non smetteva di squillare dentro casa. Episodi ininfluenti per la storia dell'umanità, ma che nelle cene di famiglia vengono ricordati per anni, soprattutto in occasione delle festività. Come vedete, le descrizioni ampie degli ambienti o comunque delle situazioni, perché sono anche situazioni di vita, non sono soltanto luoghi e non sono soltanto topografia, vengono oltre che espresse in questa almeno prima parte del libro, poi ribattute dalla ridichiarazione delle parole chiave che nel testo sono state nominate. Allora, si parla dei pinoli, dei sassi, delle piccole dimensioni raccolti lungo la strada, i bambini che giocano a pallone, eccetera, eccetera. E poi c'è pietra, granito, gelato, pinoli, sassi, una sorta di serie di colpi di chiodi che inchiodano questa storia a, appunto, degli oggetti identificabili. Lo stesso succede poche pagine dopo con insetti, acqua, terra, foglie, topi. E grosso modo siamo arrivati fino a qui. Ma in realtà poi il libro continua proprio con uno smarginarsi della descrittibilità stessa della casa. E questo è uno, forse è il punto di contatto, come ripeto, a mio avviso, con questo filo rosso che individuo tra i vari libri, cioè la evocazione attraverso immagini della indecidibilità di fondo e dei nostri sentimenti e delle case, delle abitazioni, dei gusci, degli spazi che noi adibiamo a contenere queste nostre percezioni e sensazioni, che siano una casa, che siano una traccia musicale o che siano un pacco. Nel momento in cui questa ipoteticità, questa ampiezza dei possibili compare in maniera abbastanza fitta nel libro, poi appunto nelle parti che ancora non ha letto Giulio, soprattutto del suo libro, Troviamo che se una casa è appunto, come dicevamo, l'allegoria in qualche maniera di un riparo e quindi della solidità, della socialità, tutto è sottoposto appunto a questa ipoteticità, a questo passaggio verso l'incerto. Altri ritengono, nel caso di accesso, ci sono anche frasi che sembrano tratte da un vocabolario quasi burocratico, però attraverso questa limpidezza di dettato si accede proprio, si apre la porticina verso l'immateriale, verso l'indefinibile. E allo stesso tempo però, pagina 13, appena dopo la soglia del punto dove lui ha smesso di leggere, leggiamo: allo stesso tempo, contro l'eccesso di incertezza, quindi contro questa indecidibilità, non si deve cadere nell'equivoco di ritenere incerto tutto ciò che si consuma sulla soglia, dal momento che proprio la transitorietà del passaggio, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo abbiamo un'idea di soglia come in realtà confine definito. E però immediatamente dopo, nelle ultime poche righe del testo che così dice, l'autore continua dicendo: nel frattempo non siamo certi di essere rientrati in casa, e di nuovo quindi ritorna questa incertezza che era appena stata cacciata, scusate il gioco, dalla porta, rientra dalla finestra, e se la casa sia stata costruita o semplicemente siano rimaste intatte alcune porzioni di essa, avendo avuto cura di abbattere il resto. E quindi di nuovo l'abbattimento di questo che a un certo punto non sappiamo più se è un progetto di costruzione o di distruzione o di dissoluzione. Lo premettevo e lo promettevo, adesso è il caso appunto di sentire altri testi dal libro Ghost Track di Marilina Sciacco. Della distribuzione di omaggi gratis, barrette di cereali e lattine di tè freddo di fronte agli edifici delle università, nei parchi, ai piedi dei complessi urbani, del farsi o meno la doccia prima di andare a letto essendo ritornati tardi a casa la sera, della resistenza degli infissi, forma, colore, anno di acquisto stimato, presenza o meno di zanzariere. Degli uomini che stirano camicie la domenica sera intorno alle 20, collocando l'asse da stiro nella stanza in modo tale da essere visibili all'esterno attraverso la trasparenza dei vetri, specialmente dal punto di vista di coloro che vivono al quinto piano della palazzina di fronte. Delle piante che gli altri coltivano, che possono essere molto belle, devi saperci fare, ci vuole pazienza. Della data di scadenza degli alimenti, sebbene rispettarla, quando è possibile slittare di 2 o 3 giorni il consumo, tanto mettono sempre qualche giorno in più, lo fanno per garantirsi, per garantire il marchio. Dei supermercati, dei brand di abbigliamento, dell'affaticarsi, dell'aver fatto qualcosa sempre troppo presto, troppo tardi rispetto all'istante in cui quel qualcosa andava fatto, dell'annoiarsi, del dimenticare le cose, del meteo, ma non sempre, essendo possibile l'emergere di divergenze riguardo alla percezione del caldo e del freddo. Di questo è possibile parlare quando si perdono gli argomenti, ovvero si perde o non si è mai posseduto un terreno comune con l'interlocutore. Quando a qualcuno si dà del neurotipico, nessuno dovrebbe offendersi perché neurotipico è il presupposto di quasi tutti i complimenti. Sei stato bravo, probabilmente sei neurotipico. Sei simpatico, è pressoché certo che tu lo sia. Nessuno dovrebbe lasciarsi ingannare dal fatto che il termine sia composto da 2 parole generalmente poco apprezzate, neuro e tipico. In particolare la seconda, perché magari a qualcuno piace essere neuro qualcosa, neurochirurgo ad esempio, ma a nessuno piace sentirsi tipico. A tutti piace sentirsi speciali. Se ad esempio mi dicessero sei neurotipico, io lo prenderei come un complimento, anche se nel frattempo penserei mi dispiace, ti stai sbagliando, le cose non sono andate proprio così. Camminano in un momento della giornata che è sempre le 6 del pomeriggio oppure al mattino presto, quando parcheggiare la bicicletta fuori dall'ufficio, dentro al cortile della casa e demarcare il territorio, darsi un posto. Non riesce a vederli, i contorni si riversano sullo sfondo, le linee non si chiudono. Riesce a vederli quando ruota il meccanismo di chiusura delle imposte, per riaprirle soltanto il giorno dopo. riesce a vederli soltanto se prova a isolarne la traccia che hanno lasciato sulla retina e l'asfalto. Ha visto una processione di fantasmi. Si attraversano senza toccarsi. C'è così tanto qui che non si tocca niente. C'è così tanto. Le braccia si intrecciano soltanto secondo una lenta coazione a ricadere senza l'avvenuto appagamento del bisogno. Una migrazione di segnali senza fine, a lunga esposizione. Eh sì, qui io anche da capo leggerei la quarta di copertina. Alla fine del nastro c'è sempre un altro nastro, questo è il primo test tra l'altro che abbiamo sentito. Il timer sarà attivato appena prima della fine del nastro, qualche tempo dopo il timer segnerà che il suo tempo è scaduto, ma adesso sa che a ciascun intoppo corrisponde la stessa risposta, forse. E questo forse è probabilmente quello che rintocca in tutti i testi o in quasi tutti i testi, sicuramente nell'ultimo che abbiamo ascoltato, ma anche in realtà in questa sorta di elenco di argomenti di discussione che sono della distribuzione di omaggi gratis, degli uomini che stirano camicie, delle piante che gli altri coltivano, della data di scadenza degli alimenti. Tutte queste cose si può parlare quando si finiscono gli argomenti, quando quindi in realtà è proprio la sospensione, è proprio il parlare di tutto e di nulla, come appunto il testo dice dopo, c'è così tanto qui che non si tocca niente, che effettivamente corrisponde anche per certi aspetti al parlare comune, al parlare quotidiano e costante, che in qualche maniera tutti ci riguarda e tutti ci inchioda alla quasi semi-inconsistenza dell'esistenza. In particolare quest'ultimo testo, che si intitola Vite a lunga esposizione, che Marilina ha letto, mi sembra significativo di quello che è un po' tutto il clima del libro. Intanto che si cammina in un momento della giornata che è sempre le 6 di pomeriggio, come una sorta di scena becchettiana che continua a, come un nastro appunto, a riavvolgersi sempre su se stesso. E non riesce a vederli, i contorni si riversano sullo sfondo, le linee non si chiudono, come non si chiude, vedremo se lo leggerà, il perimetro in fondo della casa, del progetto per una casa di Giulio Marzaioli, e come invece si chiude ma non sappiamo cosa c'è dentro, non sappiamo esattamente che cos'è questo libro, il libro Il pacco di Antonio Sixti. Riesce a vederli soltanto se prova a isolarne una traccia, track, che hanno lasciato sulla retina, e l'asfalto ha visto una processione di fantasmi, Ghost Track è il titolo del libro, e una processione di fantasmi, si attraversano senza toccarsi, quindi è come parlando appunto di argomenti che in fondo non riguardano niente e nessuno, la distribuzione di omaggi gratis, gli uomini che stirano, le date di scadenza degli alimenti, il tempo, eccetera. La traccia che hanno lasciato sulla retina e l'asfalto ha visto una processione di fantasmi, si attraversano senza toccarsi, c'è così tanto qui che non si tocca niente. È ovvio che un tipo di testo come questo, c'è così tanto, poi continua, le braccia si intrecciano soltanto secondo una lenta coazione a ricadere senza l'avvenuto appagamento del bisogno, quindi queste braccia che ricadono di nuovo tornano a una sorta di prefigurazione teatrale appunto di personaggi becchettiani che si avvicendano su una scena, una migrazione di segnali senza fine a lunga esposizione, con questo pomeriggio che non finisce mai, che coincide sempre con queste 6 del pomeriggio che non smettono mai di essere tali. Cioè, in tutto questo è inevitabile notarlo, a mio avviso, così come nel progetto e nella costruzione del progetto di Giulio Marzaioli, un'identità anche appunto metatestuale, come se appunto si stesse parlando dell'inarrivabile del testo, del testo almeno così come veniva configurato e considerato fino alla soglia della fine del Novecento. E quindi un testo che in realtà non può che essere aperto, è soltanto aperto e quindi ripiegato in qualche maniera sul proprio paradosso, sul paradosso della incompibilità. E però nello stesso tempo questo viene tagliato in allegoria, quando appunto leggiamo c'è così tanto qui che non si tocca niente, abbiamo comunque la scheggia memorabile, però non l'abbiamo nella forma assertiva che normalmente noi sappiamo essere un po' la firma di tanta scrittura appunto poetica contemporanea. Abbiamo effettivamente una costruzione per schegge che a un certo punto arriva a definire qualche cosa che incidentalmente è anche l'identità dell'intero libro e anche l'identità del nostro rapporto con il reale. E però non ci è stata apposta, almeno a me non sembra, né lo dice la lettura stessa di Marilina, che è assolutamente non teatrale, non teatralizzante, non è stata posta dall'alto, non è stata gettata agli ascoltatori come se gli ascoltatori dovessero sentire che c'è così tanto qui che non si tocca, che non si tocca niente, come appunto recitato da un palco altissimo illuminato da luci come se ci fosse a mezzogiorno. Siamo in un costante orario delle 6 del pomeriggio, siamo in una situazione in qualche maniera di stallo. Questo lo dico nello stesso tempo in cui sottolineo che non è riportabile solo a questo la ricchezza dei singoli testi, perché adesso poi io qui sto parlando dei testi liberamente scivolando da uno all'altro, come se in realtà lo si potesse fare una certa leggerezza. Questo non è assolutamente possibile. Io faccio soltanto il mio compito di vago affabulatore, ma in realtà vanno letti e indagati individualmente, perché anche le complessità interne del testo hanno delle specificità che assolutamente non è possibile qui in poche parole riassumere. Un'ultimissima nota prima di passare la lettura a Michele Zaffarano, che appunto ci leggerà ancora da Antonio Sixti, dal pacco. È interessante che questa ghost track arriva alla fine di un percorso che ha all'inizio delle epigrafi, in particolare una che mi piace citare, da Corrado Costa, che è proprio un frammento microscopico, però è un po' una sorta di mia ossessione, questo testo degli anni 80 di Corrado Costa, che è in realtà un testo soltanto registrato, che dice: questo è il retro, bisogna voltare dall'altra parte. Questa è la parte che Marilina cita, e dice: siete sul retro, il retro, il retro, retro, state sbagliando tutto, testoni, siete ancora sul retro, dovete girare. Perché? Perché è come se appunto si definisse, in base a un oggetto, che è appunto la cassetta, che tutti abbiamo avuto tra le mani negli anni, nei decenni purtroppo passati, anche una forma di identità o di possibilità di descrivere il testo in quanto tale, cioè qualche cosa il cui senso sta sempre da un'altra parte, sta sempre una parte che è difficilmente attingibile anche con gli stessi elementi che lo stesso testo ci dà. E in questo caso questa traccia che Marilina pone su carta è addirittura fantasma, quindi ancora un passo più, diciamo, immateriale rispetto a quello che lo stesso Costa incideva su qualcosa di estremamente concreto come una cassetta registrata. E non so se per Giulio, no, ancora abbiamo qualche minuto, vogliamo ascoltare, ok, Antonio Sixti, il pacco, sempre una lettura di Michele Zaffarano. Azioni. La posizione del pacco che chiameremo X, una piazza di una città in prossimità di un lago, le dimensioni 7 cm di lunghezza, 3 cm di larghezza, 1,75 cm di altezza, più 72 cm quadrati di stoffa di colore giallo canarino chiusa in una valigia in un deposito bagagli della stessa città. Proseguendo nella descrizione, accanto al pacco c'è una macchia di inchiostro blu come fosse uscita dal pacco, ma non è così. A un metro di distanza c'è una donna anziana seduta. La donna è vestita di nero su una sedia color giallo canarino come la stoffa chiusa nella valigia. Accanto alla donna si vede una figura di giovane uomo con un cappello in testa. L'uomo tiene un ombrello aperto, non c'è sole. A qualche metro dall'uomo e dall'anziana donna, appoggiato a terra, c'è un telefono rosso. La posizione del pacco che chiameremo Y. Una piazza di una città in prossimità di un lago. Le dimensioni 7,5 cm di lunghezza, 3,5 cm di larghezza, 1,95 cm di altezza, più 77 cm quadrati di stoffa di colore giallo canarino chiusa in una valigia nel deposito bagagli della stessa città. Proseguendo nella descrizione, accanto al pacco c'è una figura di giovane donna sdraiata. La donna è vestita di giallo canarino, come la stoffa chiusa nella valigia. Ai suoi piedi c'è un rotolo di filo bianco legato a una caviglia e fissato al pacco poco distante. In direzione del pacco e della figura di donna c'è una seconda figura di giovane donna in piedi. Questa seconda donna è vestita di giallo canarino, come la stoffa chiusa nella valigia, e si trova a qualche metro dal pacco, in posizione di attesa con una corda al collo. La corda è collegata al pacco, la donna è pronta a trascinare il pacco con il collo. Con la mano destra tiene un ombrello bianco aperto come per ripararsi dal sole. Nota al paesaggio descritto: all'interno del pacco c'è un micro registratore a nastro che trasmette un respiro affannoso continuo. La cosa fa un po' ridere. Il curioso e ambizioso viaggio dei pacchi X, Y e Z. Il pacco Y si muove lentamente tirato dalla figura in giallo con la corda attorno al collo. La figura procede lentamente ma inesorabilmente andando in direzione di una piazza al centro della città. Il gomitolo di filo bianco collegato ai piedi della seconda figura gialla si srotola. La figura attende sdraiata fino all'arrivo del pacco Y nella piazza del centro della città. Il pacco Z parte da un punto indefinito e arriva a un punto altrettanto indefinito. Seguono varie azioni a piacere delle figure in corrispondenza ai pacchi descritti. Il pacco X non si è mosso perché tutti dormono e sognano la disposizione dei pacchi nella piazza di una città in prossimità di un lago. Le figure sognano anche il ripostiglio alla stazione dei treni dove giace solitaria la valigia contenente la stoffa giallo canarino. Se le figure dormono in questo modo, è abbastanza palese che altre figure siano portate non a credere che si siano addormentate e che stiano sognando, ma che siano in realtà morte. Questi sono i danni collaterali di una vita così avventurosa e incredibile come quella che definiamo vita di A.S. La vita di A.S. che è la vita di Antonio Sixti, che è questa identità seconda, potrebbe essere. Infatti la nota dice giustamente, le iniziali A.S. potrebbero indicare Antonio Sixti, identità per il resto alquanto incerta, non trovandosi scritta in alcun registro anagrafico conosciuto. E l'identità di Antonio Sixti infatti è da tantissimi anni questa qui, ed è l'identità, un'identità fittizia che però corrisponde alla persona reale che dissemina di tracce, di senso, tracce anche un po' fantasma, e il suo percorso appunto artistico, teatrale soprattutto. Qui vediamo come appunto da luoghi sostanzialmente linguistici, letterari, come sono quelli dei due libri di Giulio Mazzaioli e di Marilina Sciacco, arriviamo a un testo che è quasi un testo per il teatro, comunque quasi un testo che prevede un'azione, una o una possibilità di descrizione di azioni. Ciò non toglie che queste azioni poi possano essere particolarmente paradossali e non attuabili su un palcoscenico effettivo, perché è difficile immaginare delle persone che stanno sul palco e sognano, e tutto quello che viene descritto prima sostanzialmente è l'arredamento di questo sogno. È anche vero che il palco comunque viene immaginato come tale, perché ci sono altre persone, si dice qui, altre figure che sono portate non a credere che si siano addormentate le persone sul palco o che stiano sognando, ma che siano in realtà morte. E questo appunto ci riporta a una situazione in cui degli spettatori vedono delle figure che sono distese in terra e non possono pensare altro che il regista le voglia rappresentare come tali perché sono morte. In realtà stanno sognando, ma questo lo possiamo sapere soltanto dal libro. In sostanza questo è una sorta di switch tra un contesto teatrale, un contesto artistico, perché vediamo che appunto è un pacco di difficile contenuto, ed è anche in qualche maniera quello che recentemente è stato, no, va di moda definire, però effettivamente si comincia a definire con una certa insistenza iconotesto, perché è un testo corredato da immagini, immagini con anche delle didascalie che però in realtà sono a loro volta dei testi, quindi con delle messe in scena figurali che però diventano, si ritrascinano sulla scena del testo, della testualità, della letteratura, e dopo magari Michele ci leggerà ancora qualcosa da questo. Come vedete anche qui tutto si rende difficile, se vogliamo riportarlo a quello che Corrado Costa giustamente stigmatizzava negli anni 70, cioè a un'idea di riproduzione. Corrado Costa giocava, no, con la riproduzione sessuale, con la riproduzione effettiva della realtà in un meccanismo presunto filmico letterario, che è anche un'espressione che ritorna nel libro di Marilina Sciacco a proposito della riproduzione in questo senso appunto. E nella quarta di copertina di Antonio Sixti leggiamo: continua a esserci qualcosa di poco chiaro in tutta questa vicenda, ma anche a questo punto conta molto poco sapere cosa sia. E quello che conta in realtà è il testo, il gusto del testo, anche il divertimento a volte, il buffo, il fatto che ci sia un po' anche da ridere e che la cosa fa un po' ridere, lo dice anche l'autore, a un certo punto in questa organizzazione così complessa e così precisa di elementi. Come una specie di così spettacolo teatrale di cui non comprendiamo esattamente il meccanismo, ma che è effettivamente gustoso da seguire dall'inizio alla fine. Io appunto non voglio prendere troppo tempo a Giulio, che appunto deve lasciarci, e vorrei ascoltare da lui qualche altra pagina. Osservata dalla soglia, la casa può risultare leggera, quasi impalpabile. Ma la casa in cui si abita è densa di gravità. Ogni corpo, ogni oggetto, le stesse mura scaricano il loro peso, escludendo, a causa del soffitto, l'illusione di un ipotetico sollevamento, anche soltanto immaginario. La casa incombe e ci stringe tra le sue pareti. Rimanendo sulla soglia, dovremmo necessariamente ipotizzare che il perimetro della casa non sia chiuso, che un lato rimanga aperto, senza mura. Non può essere la soglia l'unica via d'uscita. Dobbiamo ipotizzare un'alternativa. Un lato della casa rimarrà aperto verso l'esterno, privo di mura. Dato che senza pavimento cadremo nel vuoto o cammineremo, pranzeremo, dormiremo su terra umida e permeabile, e che senza soffitto saremo esposti alla variabilità degli agenti atmosferici, priveremo la casa di un muro perimetrale. Restando sulla soglia, che rimane il punto di maggiore attendibilità, la scelta più immediata è di rimuovere la parete più lontana dal punto di osservazione, che se la pianta della casa fosse quadrata o rettangolare, corrisponderebbe al lato opposto alla porta di ingresso. Le altre pareti rimarrebbero spoglie. Qualsiasi immagine di qualsiasi tipo e ancor peggio qualsiasi specchio sarebbero affissi al muro a osservare, sino a scambiare ruoli e a diventare essi stessi abitanti della casa, per quanto immobili, costringendo a eludere quell'osservazione senza sguardo, ferma e mutevole a un tempo, in ragione dei nostri movimenti. Essendo spoglie le altre mura, resta nelle prerogative del lato perimetrale rimasto aperto sfidare la monotonia del bianco e di qualsiasi altro colore siano intonacate le pareti. Sono in ogni caso preferibili colori neutri che possano interferire il meno possibile con la variabilità cromatica della quotidianità. Non ho altro da dire se non applaudire. Scusate. E leggiamo ancora qualcosa da Gostrack. Altro questi specchi che nella casa di Giulio rimangono così con le figure intrappolate quasi dentro, sono molto fantasmatici, sono molto fantasmi. Di nuovo è una giornata di sole insolita dato il periodo dell'anno. Qualcuno al piano di sopra sta urlando. È possibile udire piani sottostanti una bestemmia. Sta restituendo a qualcuno un torto antichissimo. Una ragazza prenderà la linea rossa della metro, direzione Sesto Primo Maggio. Il corso sarà pieno di conversazioni e mosche. Un'altra ragazza acquisterà un profumo prima che le sia stato accreditato lo stipendio. C'è il rischio che tutti i post possano incepparsi. C'è il rischio che un senza tetto all'angolo di via Boscovic raccolga un importo non prevedibile. Che la fila alle casse si blocchi inspiegabilmente, mentre la riproduzione, come tutti gli istinti animali, continuerà a esistere. Prevedere un gran finale, e neppure fossi esplosa a Volgograd, 25 morti almeno. Ci sono dei momenti nel corso dei protocolli in cui la memoria si stacca dalla via indicata dal controllo, risponde a una serie di domande del controllo, dicendo che la risposta sarebbe stata irrilevante. La vita andrebbe vissuta così, senza cambiarne una lettera. Da questa altezza vede solo quello che manca, come essere sfiorati all'improvviso dal sospetto che il quadro completo non esista affatto. Anche questa volta avrebbe selezionato i dettagli da inquadrare, evitato accuratamente il proprio ingresso all'interno della cornice, sostando oltre i margini del telo, in un altro fuoricampo. quanto rumore. Fuori non c'è nessuno. La leva giusta per disinnescarmi. Vorrei cercarla adesso. Lei sa dov'è? Io ho 11 buchi. Il buco giusto per disinnescarmi è quello che non vedi, lo nasconde sotto il mento. Si è rivoltato, adesso non si trova più. Non trova più le pupille, la peluria, la saliva. Non so cosa mi mancasse di quei tempi. Il prato artificiale, no, è la chiave che va tolta. La ruota giusta per disinnescarmi. Adesso prendi le tue cose e vai via, è meglio che tu lo faccia adesso. Vive in centro, colpita in centro, è andata al centro. Non so se voglio saperlo, forse no. Noi abbiamo sprecato molte vite, le vite giuste, per disinnescarmi. Marco, c'è una parte che si intitola documentazione, in cui c'è sostanzialmente una foto e vari dettagli. La foto è sulla foto c'è praticamente Edoardo Salvinetti che sta salendo su una Renault bianca, siamo intorno al 79, c'è un signore con gli occhiali che gli sta tenendo la porta aperta e c'è quello alla guida che sta guardando Salvinetti. Questo per dire, è la nota a questa figura. La fotografia è stata scattata presumibilmente da AS nel 1979, è un esterno giorno. Non sono state ritrovate annotazioni di sorta sul luogo o sull'occasione cui fa riferimento l'immagine. È una fotografia dall'apparenza casuale, ma con un sottile intento di documentazione. Un uomo apre la portiera di un'auto per far salire un altro uomo sul sedile anteriore accanto a un terzo uomo che guida. Prima serie di ipotesi. A. Forse l'uomo che sale deve essere accompagnato in qualche luogo. B. Forse l'uomo che sale si trova fuori città rispetto al proprio luogo di residenza. C. Forse l'uomo che sale deve essere accompagnato a casa in auto. D. Forse l'uomo che sale deve essere accompagnato alla più vicina stazione ferroviaria per prendere un treno che lo riporterà alla propria dimora di residenza. E. Forse l'uomo che sale deve essere accompagnato a una stazione di autobus perché è in corso uno sciopero dei treni delle FFSS. Seconda serie di ipotesi. A. Forse l'uomo alla guida dell'auto porterà l'uomo che sale a un appuntamento cui non può mancare. B. Forse l'uomo alla guida dell'auto lo porterà in un bar a bere un bianchino o un Campari, un Fernet Branca, un Ramazzotti o uno Zucca o qualcosa di ancora più alcolico come un Negroni. C. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo con gli occhiali che con cautela e attenzione apre la portiera dell'auto sono in qualche modo collegati. D. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo con gli occhiali che con cautela e attenzione apre la portiera dell'auto si conoscono. E. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo con gli occhiali che con cautela e attenzione apre la portiera dell'auto sono amici. F. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo che con gli occhiali che con cautela e attenzione apre la portiera dell'auto lavorano assieme. G. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo con gli occhiali che con cautela e attenzione apre la portiera dell'auto sono parenti. H. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo con gli occhiali che con cautela e attenzione apre la portiera dell'auto hanno le stesse origini e provengono dalla stessa regione italiana. I. Forse l'uomo alla guida è più giovane dell'uomo che apre la portiera. Terza serie di ipotesi. A. Forse l'uomo che apre la portiera dell'auto subito dopo questo gesto se ne tornerà a casa a piedi dalla moglie che lo sta aspettando. B. Forse l'uomo alla guida dell'auto accompagnerà l'uomo che sta salendo a casa sua per una cena. C. Forse la cena a casa dell'uomo alla guida dell'auto sarà una cena a base di pesce e verrà preparata con amorevole dedizione dalla moglie di quest'uomo che guida. D. Forse l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo che sta salendo berranno del buon vino bianco di marca, magari un Bordeaux Blanc del 1971. E forse l'uomo alla guida e sua moglie hanno figli piccoli che al momento dello scatto della fotografia sono a casa a fare i compiti. F, forse quando l'uomo alla guida dell'auto e l'uomo che sta salendo arriveranno a casa del primo per la cena a base di pesce, l'uomo alla guida saluterà i figli prima che vengano messi a letto dalla donna che è sua moglie e la madre dei bambini. Quarta serie di ipotesi A. Forse l'uomo che sembra voler salire sull'auto in realtà non è intenzionato a salire, ma solo ad allungare la mano per stringerla all'uomo alla guida che non ha fatto in tempo a salutarle qualche istante prima di salire lui stesso sulla propria auto. B. Forse l'uomo che sembra voler salire sull'auto in realtà non è intenzionato a salire, ma solo ad allungare la mano per stringerla all'uomo alla guida dell'auto che, dopo averlo incontrato mentre camminava in compagnia del terzo uomo con gli occhiali, si era fermato per consentire a quest'ultimo di aprire la portiera e a lui di stringergli la mano. C. Forse l'uomo che sembra voler salire sull'auto non è affatto intenzionato a salire sull'auto, ma ci ha ripensato, con l'ovvio risultato che la sua decisione di prendere un taxi trasformasse il gesto dell'apertura della portiera in un gesto del tutto inefficace, utile solo a permettere un rapido saluto fra lui e l'uomo alla guida. D. Forse l'uomo con gli occhiali che ha aperto la portiera all'uomo che sembra voler salire sull'auto, una volta salito quest'ultimo accanto all'uomo alla guida, si sistemerà lui stesso sul sedile posteriore e, forse dopo questo scatto fotografico, i tre uomini si ritroveranno assieme all'interno dell'auto diretti in qualche luogo fuori città. F. Forse dopo questo scatto fotografico i tre uomini si ritroveranno assieme all'interno dell'auto e parleranno di argomenti inerenti alla poesia. Quindi grazie a Michele e Antonio Tassi. Questa è una lunghissima nota, come avete intuito e immaginato, che un po' in questo caso, torno al testo di Corrado Costa, poteva anche non essere letta tutta. Cioè, ci rendiamo conto, io ho avuto tempo di andare di là a portare l'acqua dentro e riuscire e non ho perso elementi. Questa, secondo me, oltre a essere una delle caratteristiche più interessanti di talune esperienze anche di scrittura non necessariamente recenti, anche che riguardano, come del resto anche l'esperienza di Antonio Sixti, anni passati, esperienze che al confine tra l'arte contemporanea con le istruzioni per compiere alcune azioni e la letteratura, è anche riportabile alla stessa esperienza di Corrado Costa, che non a caso appunto all'inizio degli anni 80 scrive questa, registra questa cosa incredibile che è appunto Retro, in cui per 8 minuti e passa dice retro, voi siete sul retro, eccetera. Anche questo è un testo che non ha più, come buona parte degli scritti, dei testi, delle testualità perfettamente cesellate del corso del primo Novecento e anche del secondo Novecento, chiedono analisi partita e assolutamente non può essere spostata una virgola, non può essere tolto un aggettivo perché altrimenti tutto il testo casca. Qui, in questa nota, come nel testo registrato di Corrado Costa, se noi segmentiamo il testo, ne ascoltiamo soltanto una parte, ci assentiamo e torniamo, siamo comunque in presenza della totalità dell'opera. E questa è una delle altre possibili identità di quello che si può chiamare un testo installativo, cioè un testo che non è necessariamente performabile come performabile una pièce teatrale che se tu perdi l'inizio o perdi un pezzo al centro poi non capisci come continua. È un testo che è una installazione, come fosse un oggetto, una stele attorno a cui tu giri e che sostanzialmente un giro serve, è sufficiente a identificare. Ovviamente poi c'è anche il gusto dell'iterazione, c'è anche il gusto del ritmo nel momento in cui uno voglia, volendo, ma non è richiesto dal testo, accentuare questo aspetto, e ci sono quindi elementi che intervengono anche a rendere più complessa l'operazione. Però sostanzialmente questo è uno dei testi che a mio avviso condensa in maniera molto chiara l'identità di un certo tipo di scrittura di ricerca per la quale siamo qui e per la quale esiste anche questa collana, che comunque è una collana particolare perché non è rivolta esclusivamente, come per esempio la collana Chapbook della TIC edizione, alla scrittura di ricerca, ma alla mappatura delle scritture contemporanee. Qui però abbiamo concentrato in questo pomeriggio una significativa parte della ricerca letteraria contemporanea. Io lascerei a Marilina, se vuole, di concludere con una sua lettura ulteriore, se vuole, e poi una conclusione che in realtà rimane aperta, perché chi vuole fare qualche domanda, anche se insomma Antonio non c'è, Giulio se n'è andato, ma insomma cercheremo di rispondere. Siamo in una posizione un po' scomoda. Sì. No, visto che hai parlato del testo installativo e anche proprio di questo atteggiamento testuale che poi va a incidere in modo significativo sulla morfologia di questi libri, mi piacerebbe leggere una parte della sezione di questo libro che si intitola Test. Ah, certo. E che di fatto implica una parte perché sarebbe bellissimo, però. Diciamo per ragioni di tempo non credo sia il caso, però ecco, mi interessava concentrarmi su questa sezione, per quanto sia ovviamente non performativa, certo. Non sono testi creati per la lettura, semmai sono testi creati per essere letti e per chiamare a sé una interazione del lettore. Anche perché non sono così frequenti delle poesie, dei testi di poesia interamente costituiti da domande. Invece a me interessava proprio operare anche una violenza su un dispositivo, se vogliamo, anche biopolitico di controllo, come può essere quello di un test psicologico, manipolarlo in qualche modo e mettere il lettore di fronte a questa serie di domande, se vogliamo, anche banali nella loro articolazione. Però eccomi, mi sembrava interessante richiamare in modo diretto un intervento di chi legge, perché credo che il testo installativo sia anche questo, e per questa ragione si collega anche al discorso che facevi sull'opacità semantica, sull'indecidibilità. Non è l'autore o l'autrice che dall'alto impone una certa visione, ma in questo libro il mio intento è stato soprattutto quello di mettere in moto una sorta di macchina che potesse generare delle sensazioni in chi legge, e parte integrante di questa macchina sono queste domande, quindi certo. Ecco, volevo semplicemente fare questa ulteriore premessa, anzi ti ringrazio per le tue parole assolutamente calzanti. Quindi leggo, dai, facciamo una pagina di queste domande, o massimo due, e poi vorrei concludere con l'ultimo testo, che effettivamente è l'unico nel quale compare in maniera esplicita la famosa traccia fantasma. Che dà il titolo al libro. Tendi ad essere così assorbito dai tuoi interessi speciali da dimenticarti o ignorare qualsiasi altra cosa. Hai un'avida perseveranza nel catalogare e raccogliere informazioni relative a un argomento di tuo interesse. Per te è molto importante trovare una nicchia particolare dove acquisire competenze uniche. Noti spesso schemi nelle cose. Hai un talento speciale che hai enfatizzato e su cui hai lavorato. Sei confuso se ricevi molte istruzioni verbali nello stesso tempo. Trovi difficoltà a prendere un messaggio al telefono e a passarlo correttamente. Hai difficoltà ad apprendere e ricordare cose che non ti interessano. Hai difficoltà a descrivere e riassumere le cose come eventi, conversazioni o qualcosa che hai letto. Hai difficoltà a riempire i moduli. Hai difficoltà a riconoscere i numeri di telefono se detti in modo diverso. Hai bisogno di fare le cose da solo per poterle ricordare. Sei facilmente distratto se non stai facendo una cosa che ti interessa particolarmente. Se la tua attività viene interrotta, sei in grado di tornare rapidamente a quello che stavi facendo. Ti serve molta motivazione per fare le cose. Hai difficoltà a trovare la strada, direzione in un posto nuovo. Lavori lentamente se non ti piace ciò che stai facendo. Hai difficoltà a leggere gli orologi a lancette. La tua scelta, che il brano non finisca, che il nastro non sia soggetto al logoramento precoce, che Alice resti sospesa in piedi fra le lastre colorate, senza poter né entrare né uscire dalla stanza, in certe zone temporanee di non belligeranza, regioni dalle case tutte uguali. Restiamo così bloccati in un unico gesto che ripetiamo a intervalli asincroni. Rifacciamo il test da capo, deve esserci stato chiaramente un errore. Avevamo incominciato per stare meglio, per esplorare la stanza, adesso ci siamo sprofondati. In compenso, avremo la nostra traccia fantasma personalizzata, un nuovo segmento di genoma attraverso cui rivendicare un ruolo unico, una disappartenenza, una cicatrice. La pelle, la bocca, il film di Millar, altri strati di polietilene, la semiosfera, l'orizzonte degli eventi, i ponti di Einstein-Rosen, il Big Crunch, il passato. Strappa e ricuci. Grazie. Marina Sciacco, Ghost Track. Antonio Sixti, Il Pacco, Giulio Marzaioli, Progetto per una casa. Se ci sono domande, noi siamo quasi tutti qui. Un contingente. Un drappello. Eh sì. Certo. Pensavo dovessi fare una domanda. Fai una domanda. Datti una risposta. Comunque qui compare Alice, che è anche un'altra figura che compare, è stata citata, ma insomma... Non hai letto, una domanda la faccio io, non hai letto i titoli, come mai? Quasi mai. Ma di solito quando leggo ad alta voce tendo a non leggere i titoli, è una scelta credo in parte irriflessa, in parte anche motivata dalla... ancora una volta dalla volontà di non voler trasmettere un messaggio dall'alto. Invece diciamo che questa idea di leggere il titolo anche in maniera un po' prescrittiva, un po' scolastica, credo che mi allontani personalmente da quello che vorrei quantomeno trasmettere con la lettura. Ok. Deve essere un'altra domanda, quando leggi in pubblico leggi i titoli? No, io tra l'altro ero curioso, avrei voluto avere i risultati, perché poi la cosa bella è che alla fine di tutta questa sequenza di domande poi c'è il risultato finale, c'è una serie di punti di sospensione, non c'è nessun risultato, per cui alla fine andrò a cercare in rete questo questionario e cercherò di farlo. Ah, che hanno alcuni. Io personalmente trovo che il titolo sia un po'. Forse anche no. Beh, quelli di. In realtà, quelli di Giulio sono gli unici che non hanno mai titolo. E quelli invece di Antonio, ecco, la posizione del pacco che chiameremo X, la posizione del pacco che chiameremo Y. Però sono titoli in fondo, no, freddi, cioè intenzionalmente parte della stessa attrezzeria di scena, insomma, no? Di Marilina, alcuni sì, alcuni quelli, no? Quelli del mio libro sono quasi esclusivamente titoli delle sezioni, perché infatti Marco parlava di quattro progetti che costituiscono un po' quattro linee parallele attraverso cui si articola il libro. Quindi sì, diciamo che i titoli segnalano i diversi momenti in cui si articola questo movimento, però ecco, sono più delle fasi di un processo, ecco, che dei titoli in qualche modo esplicativi di cosa ci sarà dopo. Sì, esatto. Un modo per rompere il ghiaccio è alzarsi e andare a bere un po' di vino che abbiamo portato. Un applauso a Marilina, a Antonio e a Giulio.